Su queste basi, che sono basi tutt'altro che speciali, molti artisti, come dicevo all'inizio, si ostinano nella ricerca di qualcosa che non c'è, ma che sarebbe bello se ci fosse. Bisogna fare attenzione ai falsi e alle cattive traduzioni. Per avere un Gianni Agnelli anche in Sardegna non basta trovare un distinto signore che faccia l'avvocato e che si chiami Giovanni Angionis. Sai del rosa filla mia e vivendo antra armonia, ma voi galletti d'armonia che non da gatta da in sapida, se vrei bocci di vicio che ti sa disgregazione in castello, sa cittadini di indiviga dei nudini di torra pruso. Anche se vivi di insincerto, si morri di un concerto. Anche se luci che traballa, gatta disoccupazione. O ti prometti di su posto quando è periodo di elezioni. E anche che vecchio vivi mai, che non importa se pensioni. E già fa un vivi di meuso che non ti disoccupazione.